GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'esortazione ai giovani, una critica del mercato del lavoro che li penalizza. Nel discorso del presidente Bonomi all'assemblea di Confindustria a Trieste, presenti i ministri Giorgetti e Ciriani. Click day per i lavoratori stranieri, la regione ha chiesto poco meno di 900 persone al governo, ma i numeri restano insufficienti soprattutto nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e del turismo. Un'unica offerta per l'acquisto delle testate Gedi, tra cui il piccolo e il messaggero Veneto, arriva da una cordata guidata dalla banca Finint. Mancano autisti dei bus, ieri lo sciopero a Udine, previsto un recruiting day per 85 candidati il prossimo 27 aprile. L'aeronautica militare italiana compie un secolo, tante le iniziative in programma in regione, dalla base di Rivolto, sede delle Frecce Tricolori, fino ad Aviano e Gorizia. Solo il 40% della popolazione in regione risponde agli screening per la prevenzione del tumore al colon, che, se diagnosticato in tempo, ha un'alta percentuale di guarigione. Oggi un incontro con gli esperti promosso dalla LILT. Calcio, Serie C, il Pordenone torna al successo nella partita più importante, il posticipo con la Pro Sesto. I neroverdi vincono per 1-0 con un gol di Aieti e scavalcano i Lombardi al secondo posto. Consegnato il trofeo Emilio Felluga alla memoria del ginnasta Filippo Nava, una promessa della ginnastica artistica, scomparso a 15 anni. Un buon inizio di giornata da parte di Elisabetta Zaccolo e di Lara Zani in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Prima di entrare nel vivo delle notizie, uno sguardo al tempo. Il cielo è in prevalenza sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 5,5 gradi, a Udine 6, a Pordenone 2, a Gorizia meno 5 decimi di grado. A Tolmezzo 1 grado, a Forni di Sopra meno 5 decimi, a Piancavallo meno 1 grado, a Sappada da meno 2, a Tarvisio meno 3,5 gradi, sul Monte Lussari meno 8, sul Monte Zoncolan meno 7,5 gradi, a Grado 8 gradi, a Lignano 2. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in prevalenza sereno, dalla sera poco nuvoloso per velature. In quota vento sostenuto da nord-ovest ma in calo dal pomeriggio. Sulla costa prevarrà vento da sud moderato. Al mattino gelate diffuse in montagna e localmente anche in pianura. Un'esortazione ai giovani, sollecitando un cambio di passo per garantire loro un futuro. Abbiamo sbagliato, ora tocca a voi. È un passaggio chiave dell'intervento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi all'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico a Trieste. Bonomi si è rivolto così ieri agli studenti presenti in platea. La nostra generazione ha commesso furti nei confronti della vostra, lo ha detto alla platea composta da molti giovani delle scuole il presidente degli industriali Carlo Bonomi all'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico al Centro Congressi di Trieste. Ecco i tre motivi per cui Bonomi parla di furto. Un sistema di formazione spesso arretrato rispetto a come sono cambiate tecnologie e lavoro. Un mercato del lavoro che non attira i giovani, ma li penalizza. Un sistema previdenziale in cui ricadranno sulle loro spalle i costi delle pensioni e noi oggi invece stiamo utilizzando quelle risorse per prepensionare. Ma non pensiate che le cose non possano cambiare, ha esortato gli studenti Bonomi. Di patto tra generazioni aveva parlato in apertura il padrone di casa Michelangelo Grusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Sul palco il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si è soffermato sui buoni risultati economici dell'Italia e ha criticato il sistema dei bonus edilizi. Presente anche il ministro dei rapporti col Parlamento Luca Ciriani, che segue da vicino i lavori alla Camera di modifica del superbonus. Confermata la fine dello sconto in fattura per le detrazioni, l'ipotesi è di allungarle fino a 20 anni dagli attuali 5. Il ministro Luca Ciriani. Il tentativo è di cercare di smontare questa immensa bolla che si è creata intorno al credito e naturalmente facendo i conti con le risorse dello Stato, perché se noi non interveniamo mettiamo a repentaglio il futuro di questa finanziaria e anche degli anni prossimi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In platea diversi imprenditori, anche quelli interessati allo stabilimento Wärtsilä di Trieste. I rappresentanti di IMR Industries, azienda lombarda del settore automotive, e quelli dell'impresa di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno che agirebbe in joint venture con la Mitsubishi. hanno partecipato al tavolo ministeriale di qualche giorno fa per l'acquisizione di Wärtsilä ed erano presenti in platea all'assemblea di Confindustria Alto Adriatico. Non c'erano quelli del gruppo austriaco Christoph, ma sono segnali che un futuro per lo stabilimento triestino è possibile. Michelangelo Agurusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. In questi giorni ho avuto il modo di incontrare gli imprenditori candidati a entrare, rilevare, subentrare alla Wärtsilä e devo continuare ad affermare un parere ottimistico sulla soluzione di questa vicenda. Naturalmente ho voluto sottolineare che ogni proposta andrà poi discussa con tutti i soggetti che si sono impegnati in questa battaglia. Il mondo che sarà avrà bisogno di energia diversa e rinnovabile. Secondo Marco Patuano, presidente di A2A, occorrerà ben più di un decennio per la transizione. Indica l'esempio del Friuli Venezia Giulia, dove dalle fonti energetiche tradizionali si sta passando rapidamente a quelle che sono le rinnovabili, non solo il tradizionale idroelettrico, ma anche il fotovoltaico. A2A sta realizzando un impianto da 60 MW in Friuli Venezia Giulia vicino agli utilizzatori finali, l'industria, e per questo ancora più importante. Oggi l'Italia in termini di capacità di indipendenza dal punto di vista dell'energia è relativamente bassa a livello europeo, noi ci affidiamo ancora a molta energia importata. In realtà se noi facessimo un maggiore affidamento sulla nostra capacità di utilizzare le fonti rinnovabili, noi potremmo essere il secondo player europeo per indipendenza energetica. È su questo che stiamo lavorando e che dobbiamo continuare a lavorare. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il presidente nazionale di Federmeccanica, Federico Visentin, sarà oggi a Pordenone, ospite dei corsi di laurea in banca e finanza dell'Università di Udine. Crescita dimensionale, una scelta necessaria per le nostre imprese, che deve diventare la vera politica industriale del paese, è il tema dell'intervento, che si terrà alle 12 nel campus universitario di Via Prasecco. Decreto flussi al via le richieste per poter assumere personale extracomunitario. Mancano soprattutto non stagionali per i settori dell'autotrasporto e dell'edilizia e stagionali per il settore turistico. Ieri il click day, sentiamo com'è andata. Ristrettezze numeriche del decreto flussi manifeste già nel primo giorno utile per richiedere l'ingresso in un lavoratore extracomunitario. Il Friuli Venezia Giulia ne aspetta 860. 160 le pratiche per gli stagionali avviate da Coldiretti, ma il fabbisogno annuale è almeno il doppio. Una 80 le richieste pervenute da Confagricoltura potrebbero arrivare a 130 entro fine anno. Escluse dal click day, colf e badanti, e così com'è non servirà a nulla per noi, indica la Federazione Autotrasportatori Italiani. È infatti possibile rivolgersi solamente a 7 paesi che rilasciano patenti equivalenti. Quote insufficienti anche nel settore turistico. Fabiana Bon, titolare di un hotel a Palmanova. Per conto mio qualcosa in più sarebbe stato senz'altro utile. Poi, ci si accontenta anche. Incrementare le quote già per il 2023? Andremo a monitorare la situazione. La risposta della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ospite della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Le retribuzioni stanno crescendo nel vostro settore? Allora, direi di no. Direi di no. Le categorie produttive chiedono un cambio di passo in materia fiscale e di lavoro anche per le partite IVA. Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Il futuro è sempre più verso dei giovani che vogliono avere delle attività, definiamole partita IVA, ma delle attività anche in proprio, e per queste attività ci vogliono dei modelli che siano adatti a quello che le future generazioni richiedono. Luigi Oddo, segretario della UIL di Udine. Ti hanno bisogno, come dire, di tutele di un certo tipo che soddisfino anche i momenti in cui non lavorano, hanno un fatturato basso e possono essere assistiti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quella di ieri è stata una giornata importante per il futuro del gruppo Gedi, che comprende 6 quotidiani del nord-est, tra i quali il Piccolo e il Messaggero Veneto. Prima l'incontro con i rappresentanti di tutte le forze politiche del territorio, poi la convocazione dei CDR da parte dell'azienda, che ha annunciato l'offerta presentata da Banca Finint. Sentiamo Diego D'Amelio, del comitato di redazione del Piccolo. L'azienda si è convocato il CDR del Piccolo, del Messaggero Veneto e dei 4 giornali che il gruppo Gedi possiede in Veneto. E ci è stato detto che è cominciata una trattativa in esclusiva con una cordata di imprenditori veneti coordinata da Banca Finint. Il gruppo GEDI e Banca Finint e ovviamente questa cordata di imprenditori si sono dati tempo fino a fine giugno per valutare la situazione attraverso una due diligence. Se il risultato sarà positivo, comincerà una trattativa vera e propria che dovrebbe sfociare in autunno nella chiusura di un accordo e nella cessione del pacchetto completo dei 6 giornali. Questo annuncio riduce a 1 l'interlocutore del gruppo GEDI da 3 che si diceva che fossero, però davanti a noi si aprono 6 mesi di una trattativa in 2 tempi, il cui esito non è ancora certo, e dunque potete immaginare come all'interno delle redazioni un gruppo di giornalisti, di professionisti potrà lavorare nei prossimi mesi. Il numero 1 di Banca Finint, Marchi, ha rilanciato una nota in cui venivano annunciati gli imprenditori veneti e ha detto che auspica di coinvolgere la migliore imprenditoria del Friuli Venezia Giulia nelle prossime settimane e si impegna, diciamo, a valorizzare e integrare nel lungo periodo la redazione, lasciando intendere la volontà di investire. Come rappresentante del comitato di redazione del Piccolo, e credo di poter parlare a nome anche degli altri colleghi, ovviamente non possiamo che auspicare che la cordata di imprenditori presenti presto un piano editoriale, un piano industriale che dia rassicurazioni sui livelli occupazionali, ci facciamo, diciamo, forti, tra virgolette, della solidarietà che abbiamo ricevuto dai parlamentari di tutte le forze politiche di questo territorio e dunque speriamo, ecco, che questa trattativa possa concludersi più rapidamente che in autunno e assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali e quindi la qualità dell'informazione. In attesa del nuovo incontro tra le parti che si terrà oggi, ieri hanno scioperato gli autisti dei bus del trasporto pubblico locale di Arriva Udine. Tra le principali ragioni della protesta, la mancanza di personale che obbliga gli autisti a fare turni stressanti. Intanto la regione ha lanciato da Trieste il Recruiting Day del 27 aprile. A disposizione 85 posti per autisti del trasporto pubblico. Altissima l'adesione allo sciopero degli autisti di Arriva Udine, azienda che si aspettava che la protesta venisse revocata dopo l'ultimo incontro con CGIL, CISL, UIL e FAISA, che ha deciso l'assegnazione in busta paga di 1.640 euro per tutti i circa 1.800 dipendenti del trasporto pubblico del Friuli Venezia Giulia, in arrivo dall'ultima legge di bilancio regionale. Salari inadeguati e il blocco delle ferie, i motivi dello sciopero. Bruno Pascoli, presidente TPL. Udine io ritengo sia un caso particolare, ne abbiamo già discusso, ripeto, con i regionali, calato in una realtà particolare, connessa a manifestazioni eccetera, però il life motive di fondo è quello essenziale della carenza di personale. E per far fronte alla carenza di autisti in tutta la regione è stato presentato a Trieste il Recruiting Day per 85 candidati che si terrà il 27 aprile con il termine per le candidature il 16 aprile. Intanto a Pordenone è già partita una formazione. Massimo Zoppi, membro del CDA di ATA Pordenone. Stiamo organizzando questi corsi preparatori per poter formare dei giovani ad avere le patenti e le qualifiche necessarie come prerequisito per affrontare il concorso. La Regione inoltre si impegna a finanziare con 4.000 euro a persona il conseguimento della CQC, la carta di qualificazione del conducente, la patente per gli autisti di autobus. Maurizio Marzi, presidente Trieste Trasporti. La patente costa parecchio ed è un percorso serio e complicato. La Regione si è messa a fianco dei lavoratori che vogliono intraprendere questo percorso attraverso un'academy, una scuola. Gli anticipa i soldi della patente, del costo, e dopo che verranno restituiti in piccolissime rate durante il rapporto di lavoro. Caterina Belletti, presidente di APT Gorizia. La Gorizia è la situazione stabile. Abbiamo bisogno però di forza lavoro ed è per questo che un incontro come quello di oggi è fondamentale per la vita di tutte noi aziende. Trieste, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora le elezioni del 2 e 3 aprile. Continuano le conferenze stampa dei candidati alla presidenza della regione organizzate dalla nostra redazione. Ieri è stato nostro ospite il candidato del Terzo Polo, Alessandro Maran. Costruire uno spazio alternativo ai populisti, alle tendenze opposte verso la decrescita felice o l'indebitamento da un lato e verso il sovranismo dall'altro. È l'obiettivo del Terzo Polo ribadito dal candidato alla presidenza Alessandro Maran nella conferenza stampa davanti alle telecamere della RAI. Confronto che parte inevitabilmente dalla sanità regionale dove serve, dice Maran, un cambio di paradigma più mirato alle esigenze reali della popolazione. Il Covid in realtà ha messo a nudo problemi che però hanno anche a che fare con l'andamento demografico. L'invecchiamento significa anche malattie croniche. La mancanza di personale e le inefficienze hanno a che fare anche con questa mancanza di visione strategica, specialmente se si tiene conto che abbiamo passato anni a scrivere e riscrivere il perimetro, addirittura la denominazione delle aziende. Noi diciamo basta. Altro tema caldo, l'immigrazione, un fenomeno in sistema RAM da gestire senza paraocchi ideologici. Dobbiamo costruire una politica dell'immigrazione che non sia delegata unicamente alle forze di polizia. L'immigrazione non è un problema di polizia e non è una questione che possiamo delegare soltanto agli enti locali. Primo passo, a mio avviso, smettere di alimentare la paura. Smettere di alimentare la paura. È un fenomeno enorme, va gestito perché ci serve. Una regione che per essere attrattiva deve puntare sulle infrastrutture necessarie e da Marano in questo campo arriva una presa di posizione netta. Noi siamo per fare i rigassificatori, noi siamo per un accordo con la Slovenia che raddoppi la centrale nucleare di Krško, siamo per l'esercizio di una responsabilità. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. Le trasmissioni in vista delle elezioni di domenica e lunedì proseguono anche oggi. Va in onda il secondo blocco di messaggi autogestiti dei soggetti politici in corsa per le regionali. Appuntamento in televisione alle 13.15 circa su Rai 3 e alle 17.05 su Radio 1. Tutte le trasmissioni si possono rivedere su internet in una pagina dedicata che si raggiunge dal nostro sito rainews.it/tgr/fvg. Gli appuntamenti elettorali di oggi: il candidato alla presidenza della regione Massimo Moretuzzi incontrerà cittadine e cittadini ai mercati di Codroipo e di Fiumicello in mattinata a Codroipo e nel pomeriggio a Gorizia e a Trieste. Alle 16 visiterà il centro Bratusz di Gorizia. Il candidato alla presidenza Alessandro Maran partecipa questo pomeriggio alle 18 all'incontro pubblico studenti, atleti, artisti, come sostenere il talento delle nuove generazioni. Incontro che si terrà all'antica tostatura triestina di Piazza Venezia a Trieste. I candidati dell'associazione politica Insieme Liberi, una delle quattro liste che concorre alle prossime elezioni regionali del 2 e 3 aprile, incontrano i cittadini per affrontare insieme tematiche sensibili legate al territorio di Trieste, quali la realizzazione dell'ovovia, il disboscamento della pineta di Cattinara per la realizzazione di un nuovo polo ospedaliero, le criticità del laboratorio ICGB di Padriciano. L'appuntamento all'Hotel Milano di Trieste alle 17.30. La cronaca giudiziaria, il GIP del Tribunale di Trieste ha fissato per il prossimo 5 giugno un'udienza in Camera di Consiglio, durante la quale saranno discusse la richiesta di archiviazione per il caso di Liliana Resinovic, avanzata dalla Procura, e le opposizioni a tale richiesta presentate dalle parti offese. Presentando la richiesta di archiviazione, la Procura aveva precisato che c'era una sola ricostruzione, l'intenzionale allontanamento della donna dalla sua abitazione e l'intenzionale decisione di por fine alla propria vita. A depositare un atto di opposizione sono stati sia il marito di Liliana, Sebastiano Visentina, assistito dai legali Alice e Paolo Bevilacqua, sia il fratello della donna, Sergio, con la nipote Veronica, assistiti dagli avvocati Nicodemo Gentile e Federica Obizzi. Durante l'udienza del 5 giugno verranno sentite le parti, successivamente il GIP deciderà se archiviare il caso o chiedere ulteriori indagini. Ricorre oggi il 100° anniversario dell'aeronautica militare, diverse le manifestazioni in programma in tutta Italia. All'aeroporto di Aviano, Pagliano e Gori, in mattinata la cerimonia con l'alza bandiera solenne e gli onori ai caduti, l'inaugurazione della mostra storiografica per il centenario, la proiezione in diretta streaming della cerimonia sulla terrazza del Pincio a Roma con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e la mostra statica di velivoli storici. Alla base aerea di Rivolto, cerimonia dell'alza bandiera solenne, va varie attività dimostrative, mostra statica di velivoli storici, percorso fotografico su pannelli illustrativi sulla storia del secondo stormo, nonché una visita guidata all'hangar di manutenzione dei velivoli della pattuglia acrobatica nazionale. Per celebrare l'anniversario, l'aeronautica militare ha scelto la Fondazione AIRC come beneficiario del progetto solidale Un dono dal cielo per far volare la ricerca oncologica. I fondi raccolti verranno utilizzati per fornire nuove strumentazioni altamente tecnologiche di ultima generazione a IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC. I comitati regionali AIRC saranno protagonisti di 14 open day all'interno delle principali basi aeree dell'Arma Azzurra. In Friuli Venezia Giulia AIRC sarà ospitata a Rivolto e ad Aviano, con uno stand dove i volontari saranno impegnati a distribuire materiale informativo, mentre alcuni ricercatori coinvolgeranno i visitatori in laboratori appositamente realizzati per veicolare i temi della prevenzione e della salute. Nell'ambito delle iniziative, l'Associazione Culturale Isonzo Gruppo di Ricerca Storica di Gorizia inaugura alle 17.30 nell'atrio del Comune l'anteprima della mostra fotografica documentale Ali sull'Isonzo, aviazione e aviatori a Gorizia, visitabile fino al 7 aprile. Seguirà alle 18 la conferenza Francesco Baracca, cavaliere e aviatore, presso la sala Dora Bassi. Marzo è il mese europeo della prevenzione del tumore del colon retto, il secondo più diffuso al mondo, con circa 50.000 nuovi casi all'anno in Italia. Ma è anche il tumore che ha il 90% di possibilità di essere sconfitto se diagnosticato precocemente, partecipando alle campagne di screening. La prevenzione dei tumori del colon retto in Friuli Venezia Giulia, stato dell'arte e sinergie in rete con il terzo settore per la promozione della salute sul territorio, è il tema dell'incontro dibattito con gli esperti promosso dalla Lega Italiana contro i tumori, la LILTEL regionale, in programma a Trieste, nella sala Predonzani del Palazzo della Regione in via dell'Orologio, alle 9.30. Ne abbiamo parlato con Katrin Simet, gastroenterologa e vicepresidente della LILT di Trieste. Il tumore del colon retto è il terzo tumore più frequente nell'uomo dopo prostata e polmone, secondo tumore più frequente nella donna dopo il tumore al seno. Ogni 25 minuti muore un italiano per cancro del colon retto. La prevenzione è fondamentale perché si tratta di un tumore che nel 10% dei casi è dovuto a fattori genetici che non sono modificabili, ma nel 90% è dovuto a fattori di rischio modificabili. Parliamo degli stili di vita, ma uno diciamo dei fattori di rischio modificabili più importanti è quello di non fare lo screening. Da 15 anni le regioni organizzano la prevenzione, che significa che a partire dai 50 anni ad ogni persona viene inviata ogni 2 anni una lettera con l'invito a fare la ricerca del sangue occulto. È fondamentale diagnosticarlo in stadi precoci perché porta una guarigione maggiore del 90%. È un esame gratuito, semplice, da fare nel bagno di casa propria e se viene riscontrato una positività che soltanto nel 5% dei casi, allora viene organizzata una colonoscopia. Però l'adesione in Friuli Venezia Giulia allo screening non è alta. Siamo attorno al 40%, che dopo 15 anni di attività ormai che viene fatto con lo screening, abbiamo visto che c'è una riduzione importante tanto dell'incidenza, più del 20%, e anche della mortalità. Purtroppo le persone hanno paura spesso della colonoscopia, anche se ormai la colonoscopia è molto diversa da quella che poteva essere anni fa. Purtroppo anche il Covid ha impattato in modo importante perché c'è stata una riduzione dell'attività di screening del 45%. Prima donazione del sangue per studenti neo-diciottenni del Friuli Occidentale. Sentiamo com'è andata. È la tua prima donazione? Sì, è la mia prima donazione. Com'è andata? Molto bene, tranquilla devo dire. La prima donazione di sangue l'hanno fatta a scuola più di 400 ragazze e ragazzi neo-diciottenni degli istituti superiori del Friuli Occidentale grazie all'ultima campagna del gruppo scuola delle associazioni del settore. Ieri mattina liceo Leopardi Maiorana di Pordenone con un'autemoteca nel piazzale antistante la scuola. Mauro Verardo è presidente FDS Pordenone. Andiamo a proporre ai studenti diciottenni di diventare dei donatori. La risposta è stata veramente molto positiva. Quest'anno finalmente siamo ritornati in presenza nelle classi e quindi siamo riuscite qui al Maiorana, abbiamo raccolto 80 adesioni, ma altri istituti anche come il Grigoletti, altri 140, poi numeri veramente importanti che superano oltre le 400 adesioni. Agostino Marchi per l'Avis Pordenone. Noi educhiamo i ragazzi alla donazione, ma anche è un stile di vita per donare. I ragazzi rimangono nella donazione a un buon 90-95%, quindi abbiamo bei risultati. Che cosa ti ha spinto a donare il sangue? Ma so sicuramente che è un gesto che può essere d'aiuto per persone che ne hanno più bisogno, ma non costa nulla. E tra l'altro abbiamo la possibilità di farlo a scuola. È una cosa che potrai fare anche in futuro? Sì, sicuramente è stata un'esperienza tranquilla, quindi non vedo perché non rifarla. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Ritorna la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete per i minori. Nella nostra regione, con il track allestito in un'aula didattica multimediale, gli operatori della Polizia Postale incontreranno studenti e insegnanti questa mattina a Muggia e domani a Monfalcone. Alcuni appuntamenti. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine si tinge di giallo con l'arrivo da oggi al 30 marzo di Testimone d'accusa di Agatha Christie. A firmare la regia è Geppi Gleieses, che ha affidato i ruoli dei protagonisti a Vanessa Gravina, Giulio Corso e Paolo Triestino. Ogni sera 6 spettatori diventeranno giurati e saranno chiamati a pronunciare il verdetto finale alle 20:45. Simone Cristicchi conclude la stagione di prosa al Teatro di Monfalcone con Paradiso, dalle tenebre alla luce, oggi e domani alle 20:45, sul palco con l'orchestra dell'Accademia Musicale Naonis di Pordenone e il coro Friuli Venezia Giulia. Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere con la commedia brillante di Peter Kilter bloccati dalla neve chiuderanno questa sera alle 20:45 il cartellone 2022-2023 del Clabassi di Sedegliano. Domani alla stessa ora saranno al Marin di Grado e giovedì al Verdi di Muggia. Il cartellone dei concerti del Conservatorio autunno-inverno si conclude oggi con un concerto del giovane pianista veneto Mattia Groppello alle 20:30 nella Sala Tartini di Via Ghega a Trieste, ingresso libero ma con prenotazione. Che cosa si sono detti Gigi Riva e Fabrizio De André quando si sono incontrati il 14 settembre del 1969 dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell'anno avrebbe vinto l'unico storico scudetto? Lo racconterà agli spettatori del Teatro Verdi di Gorizia Federico Buffa in Riva De André Amici Fragili alle 20:45. Sono le 7:44 e 35 secondi, siamo allo sport, calcio Serie C, il Pordenone torna al successo nella partita più importante, il posticipo d'alta quota con la Pro Sesto. I neroverdi vincono 1-0 con un gol di Aieti e scavalcano i lombardi al secondo posto. Tutto in una notte, quella dello scontro diretto con la Pro Sesto. Il Pordenone rischia in avvio quando Sala spara a lato un rigore in movimento. Poi il vantaggio al quarto d'ora. Aieti si smarca e va a deviare di testa la punizione pennellata di Burrai dalla tre quarti. Per il difensore albanese è il sesto centro in campionato e questo potrebbe essere il più pesante. I neroverdi dominano, avrebbero la possibilità di segnare ancora, sempre di testa alla metà del primo tempo, ma la deviazione di Dubizkas nell'angolino stavolta è parata. Nella ripresa c'è anche la sofferenza quando la Pro Sesto produce il massimo sforzo per pareggiare. Il momento peggiore è un'azione prolungata degli ospiti che assediano Festa ma non trovano il varco giusto. Nervosismo in campo e in panchina, fuori l'allenatore della Pro Sesto che alla fine deve cedere partita e secondo posto. Il Pordenone è tornato, ora i neroverdi sono da soli a 4 punti dalla battistrada Feralpi-Salò. Giampaolo Mauro, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella sede dell'Artistica 81 a Trieste è stato consegnato il trofeo Emilio Felluga alla memoria del ginnasta Filippo Nava, una promessa della ginnastica artistica. Faceva parte della squadra agonistica dell'Artistica 81 con ottimi risultati. Nel pieno dell'attività aveva vinto gli interregionali, aveva gareggiato nelle fasi nazionali e alla festa della ginnastica a Rimini qualche anno fa aveva registrato grandi traguardi, salendo più volte sul podio. Filippo se n'è andato a 15 anni dopo una malattia. Nel corso della cerimonia è stato anche ricordato Emilio Felluga, per 20 anni presidente del CONI regionale mancato nel 2015, che si è dedicato allo sport e alla sua divulgazione, soprattutto tra i giovani e per i giovani. Riaperto ieri pomeriggio a Trieste, il palasport di Chiarbola, che era stato chiuso lo scorso 14 febbraio dai vigili del fuoco a causa di carenze strutturali che pregiudicavano la sicurezza della struttura. Chiusura che aveva comportato numerosi disagi alle 14 società che vi operavano all'interno. Apertura parziale, sono tornati ad allenarsi la ASD Calicanto e l'Accademia di Pattinaggio Artistico. Per la piena operatività serviranno i corsi antincendio da parte delle singole associazioni. Iniziamo la nostra rassegna stampa con il Piccolo di Trieste, che in prima pagina ha la notizia sulla cabinovia che verrà costruita non solo dalla Leitner, la società altoatesina. L'appalto per la progettazione e la realizzazione dell'opera è stato affidato anche al gruppo friulano ICOP. L'importo complessivo si attesta ora sui 56 milioni e 900 mila euro. E poi la notizia sul trasporto pubblico, la regione alla ricerca di 85 autisti di linea e il caso Resinovic. Il GIP deciderà il prossimo giugno se archiviarlo o riaprire le indagini, come chiedono i familiari del marito, del fratello e della nipote. Il Messaggero Veneto di Udine apre sul tema del lavoro, oltre 800 risposte al Click Day. Si cerca manodopera soprattutto per gli impieghi stagionali, assunzioni nelle aziende che operano nell'agricoltura. In alto il richiamo è sull'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico, la nostra priorità sono i giovani, mentre la fotonotizia centrale è dedicata alle elezioni comunali a Gemona, la sanità al centro della sfida Revelant Venturini. Tra le notizie di cronaca l'adesione all'80% allo sciopero dei conducenti di bus, un 70enne di Pontebba morto alcuni giorni dopo la caduta in Valaupa e poi casi di auto sventrate per rubare pezzi di ricambio. In prima pagina dell'edizione goriziana del Piccolo, il castello, che rimane chiuso. L'ennesimo slittamento si deve al mancato via libera da parte dei vigili del fuoco. Necessaria anche un'indagine sulle strutture in legno. Per ora non vengono fornite date o previsioni di apertura. E poi la notizia di un farmacista insultato e preso a schiaffi nel turno notturno alla comunale di Sant'Andrea per l'assenza di un farmaco. E la svolta tecnologica alla Fincantieri con il robot saldatore, annunciato ieri all'Assemblea di Confindustria dall'amministratore delegato del gruppo Pier Roberto Folgero. La proposta di Bruno Pizzul, una corsa transfrontaliera dedicata a Denzo Cainero, patron delle tappe regionali del Giro d'Italia, recentemente scomparso. Nell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto ancora il Click Day e l'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico, mentre il focus sulle elezioni comunali è dedicato a Sacile, dal commercio all'ambiente, i candidati a confronto. In cronaca il tema della siccità e delle falde in crisi, domande raddoppiate per gli allacciamenti e poi i primi risultati della possibilità per i medici di restare al lavoro fino a 72 anni. 5 medici su 9 hanno deciso di rinviare la pensione. Infine lo sport con la vittoria del Pordenone Calcio contro la Prosesto. Ora la vetta è a meno 4. Il Gazzettino di Udine richiama in prima pagina nazionale dichiarazioni del ministro Luca Ciriani a Confindustria Alto Adriatico. Il Friuli decida per sé le quote dei migranti, spazio poi ai 700 studenti in platea. Noi dell'era Covid ci faremo valere. Nella fotonotizia centrale la convenzione sottoscritta tra il comune di Ruda e la soprintendenza per il recupero della mideria Chiozza. Poi l'intervista al candidato Maran, sono io l'alternativa ai populisti. Lo sciopero degli autisti degli autobus per la cronaca, il violento pestaggio in mezzo alla strada tra i passanti in piazza Primo Maggio, infine lo sport, Jaka Biol migliora, l'Udinese spera e il ciclista Buratti sul podio in Belgio. L'edizione di Pordenone dedica la fotonotizia centrale al calcio con il posticipo serale dei neroverdi al Tognon, Ramarri una vittoria da sorpasso. Per la cronaca spinelli e cocaina venduti agli amici, arrestati due operai e poi un incidente stradale a Cordenons, scontro tra auto al semaforo, soccorse anche due bambine. Per la campagna elettorale per le regionali l'attacco social all'assessore pordenonese candidata Cristina Amirante, non hai figli allora non puoi fare progetti per le famiglie. Di piede la sanità, senologia svuotata, rischia di chiudere. Da Fiume Veneto infine la storia di Edoardo in divisa a 16 anni per seguire le orme di papà. Alcuni appuntamenti in programma per oggi. Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare a Trieste propone il secondo appuntamento del ciclo Grandi Incontri. Pierluigi Nimis terrà una conferenza dal titolo Da Federico Cesi a Plantsnap, l'evoluzione dell'iconografia botanica prima e dopo Internet. L'incontro sarà introdotto dalla direttrice del museo Andreina Contessa, mentre la moderazione e le conclusioni saranno affidate al giornalista scientifico Fabio Pagan. L'appuntamento è alle 15:30. Al Miela di Trieste al via la due giorni della rassegna Pequod itinerari di letteratura e giornalismo interamente dedicata al fenomeno mafioso, in cui si discuterà di giornalismo antimafia e si analizzerà l'immaginario cinematografico dei tanti film ispirati alla criminalità organizzata. Oggi alle 18 il dibattito La mafia al cinema. Nuova proiezione per il docufilm Trieste Bella di Notte di Andrea Segre, Stefano Collizzolli e Matteo Calore, che racconta la rotta balcanica a partire dalle testimonianze dei migranti in viaggio. Alle 18 al Teatro Bobbio di Trieste, nell'occasione verrà fatto anche il punto sulle riammissioni informali. Al Cinema Ariston a Trieste, terzo e ultimo appuntamento con l'omaggio a Franco Giraldi, proposto dal mondo del cinema del Friuli Venezia Giulia alla vigilia della capitale europea della cultura, Gorizia 2025. Per l'occasione sarà proiettato a ingresso libero la frontiera alle 19. Nella baita degli Alpini di Pagnacco, incontro pubblico sulle problematiche inerenti la prolungata chiusura del Museo di Storia Contadina di Fontanabuona. L'appuntamento è alle 20:30. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano. A seguire alle 11:20 andrà in onda Radar. I programmi regionali tornano poi alle 13:29. E chiudiamo qui questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Andrea Fontanotte e Vassia Krismansic. E prossimo giornale radio, come di consueto, andrà in onda alle 12:30. Io, Elisabetta Zaccolo e Lara Zani vi augurano una buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.